Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Deborah Paglieri, da 130 anni, una formula segreta per il profumo, di Anna Marino. Io amo cambiare, non ho un profumo specifico al quale sono affezionata, proprio perché seguo, anche per una questione professionale, le vendite di profumi e quindi top 10 nella profumeria ogni anno, sia maschili che femminili. Quando sento certi nomi e vedo che magari un certo profumo è al secondo posto da 10 anni, 30 anni, 40 anni, e quindi è inevitabile avere il piacere, la voglia, la curiosità di provarli tutti. Ce ne sono alcuni che magari fa mio papà, che certe volte, in certi momenti, uso volentieri perché mi riportano, mi ricollegano dei ricordi di infanzia, così in quel momento mi fanno stare bene, mi danno delle coccole, quindi li uso magari perché ne ho bisogno a livello emotivo. Nata tra i profumi, Deborah Paglieri ha affinato nel tempo l'esperienza olfattiva, grazie ai suoi percorsi personali e alla storia imprenditoriale di famiglia. Paglieri Profumi è oggi presente in 50 paesi, dopo più di 130 anni di storia e riorganizzazioni societarie, ed è ancora di proprietà dei diretti discendenti del suo fondatore, Mario e Aldo. Tutto è partito da un piccolo laboratorio fondato da Luigi Paglieri, diventato poi un'officina di produzione avviata nel 1876 dal figlio Lodovico. Nel 1923 crea l'Eau de Cologne Felce Azzurra, seguita nel 1926 dall'omonimo talco. Così Deborah Paglieri ricorda le origini. I primi passi sono stati individuati addirittura all'inizio del 1800, quando il trisnonno cominciò a avviare un'attività in una bottega che non aveva nulla a che fare con le profumerie di oggi, anche perché venivano vendute prevalentemente parrucche, belletti, guanti profumati. Allora si usava molto il guanto profumato, e soprattutto la profumeria era anche un luogo dove anche l'uomo si recava molto. Questo comunque accade anche oggi, sta ritornando il vezzo dell'uomo di recarsi in profumeria, quindi questo dimostra ancora una volta che i corsi e i ricorsi della storia esistono. Poi con il papà del trisnonno incominciarono ad aprire, quindi il figlio giovane, incominciarono ad aprire un secondo punto vendita, chiamiamolo una seconda profumeria, sulla piazza principale di Alessandria. E soprattutto intuitivo fu il figlio del trisnonno, perché incominciò a capire che la borghesia alessandrina manifestava un certo interesse per i prodotti francesi, che però non erano alla portata di tutti e comunque molte volte era difficile averli, importarli, non era come adesso chiaramente, e quindi incominciarono in questo retrobottega a creare delle ciprie, a creare dei rossetti, a creare delle eau de cologne, eau de parfum, sulla scia dei successi francesi. Dopodiché si passò intorno agli anni 30, direi, si cominciò a cercare di soddisfare tanto bisogni familiari, come spesso accade nelle famiglie degli imprenditori, quanto bisogni professionali. Quindi il nonno costruì un palazzo, quello che ancora esiste, nel quale ancora tutti noi viviamo, in centro città, un enorme palazzo bianco chiamato Palazzo Paglieri, è il primo palazzo in cemento armato, il primo dotato di ascensore in tutta Alessandria. E lì, oltre a vivere tutti loro e poi tutti noi, si creò anche, come dire, una prima area di produzione vera e propria, quindi con operai, con piccole catene di produzione. Un'azienda che ha saputo evolversi tenendo ben presente fin dall'inizio il suo territorio e la sua gente, ma anche la sua immagine. È già negli anni 40, infatti, che diviene un elemento distintivo che caratterizzerà Paglieri nel futuro. Viene infatti realizzata dal Boccasile la Donna coi fiori, opera che è rimasta nell'immaginario collettivo, icona e simbolo dei prodotti Paglieri. Deborah Paglieri racconta così i binari e i principi su cui si è mossa la crescita e l'eco che ha avuto sui mezzi di comunicazione, dai manifesti al carosello. Poi lo spazio, il business andò bene, lo spazio cominciò a mancare, e allora si costruì il primo stabilimento intorno agli anni 50, dove i Paglieri furono molto lungimiranti in quegli anni a utilizzare due leve importanti. Uno fu quello relativo alla fidelizzazione di quello che è il valore fondamentale dell'azienda, cioè il patrimonio umano. Quindi si aprì un asilo all'interno di questo stabilimento, dove le operaie, le impiegate, che in prevalenza erano donne, potevano lasciare in tutta tranquillità i loro bambini. E poi si introdusse anche la pausa pranzo, proprio per agevolare queste dipendenti prevalentemente femminili e fare sì che potessero soddisfare anche le esigenze del marito a casa, della famiglia. E quindi questo fu un sintomo di grande attenzione verso le necessità dei collaboratori, che così si fidelizzarono molto. L'altra leva importante in cui i Paglieri furono un pochino, secondo me, lungimiranti, fu quella di utilizzare quella della comunicazione in tutte le sue forme, in maniera veramente veramente molto primitiva, nel senso che la utilizzarono molto presto, perché pensiamo ai manifesti del Bocassile, ci fu una campagna di manifesti in bianco e nero importantissima, pensiamo alla battaglia, fenomeni più locali, la battaglia del Talco che si fece nelle due piazze importanti di Alessandria, ma che comunque destò un certo scalpore e fece notizia. La battaglia del Talco praticamente consisteva in gruppi rioni di Alessandria che decidevano, un po' come il Palio di Siena per dire, dove c'erano delle squadre che a un certo punto, utilizzando il talco come munizioni, si davano battaglia e alla fine vincevano certi rioni su altri. Ci sono degli articoli che riprendono delle scene di questa battaglia del Talco che appunto sono datate 1955. E poi ancora lei consideri che la TV, se non sbaglio, in Italia nacque nel 54 più o meno. Nel 57 Paglieri faceva già i primi caroselli, quindi veramente in maniera pionieristica, con personaggi molto noti. Parliamo del Quartetto Cetra, con cui ci fu un legame molto profondo, così come con Gianni Morandi, Alberto Lupo, poi ancora Macario, e poi per venire più vicino ai giorni nostri Ornella Vanoni, Marcella Bella, Tracy Spencer, Loredana Bertè, quindi tutte figure femminili abbastanza note che caratterizzarono i nostri spot. Anche la radio venne tra l'altro utilizzata in maniera importante sin dall'inizio. Dal punto di vista della produzione, i primi elementi che vennero trasmessi in famiglia furono le formule. Paglieri diviene subito sinonimo di profumo, una sapiente alchimia di 100 ingredienti provenienti da tutto il mondo, dosati secondo una formula segreta a felce azzurra scritta in un taccuino da Ludovico stesso. Un segreto che viene gelosamente custodito e tramandato di generazione in generazione. Questi documenti esistono ancora adesso e mio padre ne è molto geloso, in quanto è un pochino il detentore di questi documenti, che vengono conservati in una cassaforte nel suo ufficio. Queste formulazioni non sono mai state trasferite sul sistema informativo aziendale, perché lui è contrario, e quindi c'è ancora una gestione totalmente manuale, nonostante l'azienda si sia dotata di un software veramente all'avanguardia. C'è questa fetta di azienda che è rimasta ancora a livello completamente artigianale. Questo perché i taccuini sono chiusi in cassaforte, le formule le ha solo mio papà, lui si reca in produzione, lui personalmente sovrintende a tutte le produzioni dell'essenza felce azzurra. Tutte, nel senso che seleziona lui le materie prime, annusa, dice quale lotto va bene, quale non va bene, e presenzia anche alla miscelazione di tutti questi singoli componenti, che alcuni sono di nostra proprietà peraltro, cioè, o meglio, brevetti di mio papà. C'è un limone, un'arancia, un neroli, un garofano che sono di proprietà di mio padre, un patchouli, e lui presenzia e alla pesata di ciascun componente, sono circa 100, quindi si può dire che ogni lotto di produzione possa essere numerato, perché comunque è sicuramente un po' diverso dall'altro. Deborah Paglieri spiega se il passaggio di consegne tra generazioni ha anch'esso una formula segreta di famiglia. Ecco come avviene l'investitura del profumiere di famiglia. Ci sono delle regole che, come spesso accade in molte famiglie imprenditoriali, non sono ancora state scritte, ma automaticamente il più anziano è quello che diventerà profumiere, e il figlio di questi, quindi il primo della generazione successiva a entrare in azienda, teoricamente è sempre quello che prende in mano le redini. L'azienda alessandrina ha deciso di intraprendere un ambizioso progetto di recupero della propria memoria storica. Ecco i ricordi da non perdere, secondo Deborah Paglieri. Ci siamo resi conto che con mio papà, che appunto è del 1933, potremmo rischiare di perdere molti ricordi, anche molte testimonianze orali, che sono importanti, di molti dipendenti che sono già in pensione, ma che ci sono ancora e che ci vengono regolarmente a trovare, anche perché spesso hanno dei membri della loro famiglia che lavorano ancora da noi. Vorremmo, oltre alla costituzione di un archivio storico, magari, perché no, scrivere anche un libro, che potrebbe essere un romanzo, ma comunque cominciamo a dire un libro sulla storia della nostra azienda, e poi probabilmente anche creare un museo. Le cose più importanti sono sicuramente tutti quei macchinari che ancora abbiamo, con cui facevamo i dentifrici, i rossetti negli anni 30, e quindi veramente dei reperti quasi archeologici. Abbiamo anche il nostro mulino del talco, che spesso il Museo della Scienza e della Tecnica ci ha chiesto, perché è tutto in legno, quindi è veramente un monumento un po' impegnativo dal punto di vista delle dimensioni, perché non so dove potremmo ospitarlo. Comunque lui è funzionante a tutt'oggi. E poi tutti questi manifesti, abbiamo comunque la prima essenza Felce Azzurra del 1924. L'ingresso in azienda per Deborah Paglieri è stato in salita, per acquisire la necessaria competenza e diventare quello che si definisce un naso, grazie a una formazione intensa presso la casa dei profumi di Grasse, in Francia, dove un'immaginaria fabbrica dei profumi lascia il posto alla preparazione tecnica. Io ho dovuto frequentare un corso di profumeria, perché comunque, essendo la prima figlia del decano, diciamo, quindi del primo figlio della generazione precedente, prassi vuole che comunque un corso di profumeria, per avere le basi in quello, anche se poi in realtà il mio percorso professionale ha interessato aree più di tipo commerciale marketing, però il corso di profumeria l'ho fatto a Grasse. I profumieri, che vengono definiti in gergo i nasi, in realtà non devono avere doti particolari per poter diventare nasi, nel senso che chiunque può farlo, perché il naso si allena, deve essere allenato. Chiaro che chi ha una predisposizione magari dovrà allenarlo un po' meno. Io in quella scuola a Grasse ho passato intere giornate a imparare olfattivamente a memoria tutte le fragranze naturali, quindi tutte quelle sintetiche, tutte le famiglie, gli accordi, le basi, e poi alla fine l'esame era la creazione di un'imitazione, anzi di un profumo che noto, presente sul mercato, che veniva sorteggiato la mattina dell'esame, quindi tu dovevi avvicinarti e cercare di riprodurlo. Ma Deborah Paglieri ha dovuto superare anche le severe leggi del passaggio generazionale, facendo la cosiddetta gavetta. Quando sono arrivata in azienda ho fatto quello che hanno poi fatto gli altri arrivando dopo di me, cioè sono entrata a un livello molto basso, parlando proprio di inquadramenti, io timbravo il cartellino, però sicuramente è fondamentale per un imprenditore conoscere un po' tutte le aree aziendali. Oltre a pensare al passato, la famiglia Paglieri ha uno sguardo anche verso il futuro. Deborah Paglieri spiega l'iniziativa dell'azienda che riguarda i bambini di terza, quarta e quinta elementare, per insegnare e sensibilizzarli alla cura del proprio corpo, all'igiene e al rispetto dell'ambiente. Un concorso con premi a cui le scuole possono aderire. Abbiamo pensato di portare avanti parallelamente all'archivio storico un progetto di edutainment, che poi è un po' una contrazione fra l'educazione e il divertimento, da due termini inglesi. Non ha assolutamente fini di lucro, non ha assolutamente fini di volere fare pubblicità, anche perché il personaggio che veicolerà questi insegnamenti ai bambini delle scuole della terza, quarta e quinta elementare, 2000 scuole in Italia, sarà un simpatico personaggio animato che si chiama Saponello, una puzzola armata di uno suo zainetto, dove al cui interno ci saranno degli oggetti che di volta in volta lui tirerà fuori per stimolare i bambini verso un percorso di conoscenza della propria persona, della necessità quindi di mantenersi puliti, di lavarsi in un certo modo, e poi anche di salvaguardare un patrimonio importantissimo, che è quello dell'acqua. E Deborah Paglieri dice di aver pronto lo scrigno per ricevere la formula segreta da suo papà. Sarà dura, penso che lo farà sicuramente quando ci sarà costretto. Io d'altro canto sono abbastanza preparata, l'essenza Felce Azzurra in tutti i suoi componenti, devo dire, la conosco a memoria e l'ho sempre vista preparare quando ero piccolina. Sento di avere una buona preparazione, quando verrà il momento, spero il più tardi possibile, sicuramente saremo pronti a mantenere saldamente nelle mani della famiglia questa attività della creazione del profumo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.